progetto di legge che riconosce, promuove, sostiene il valore sociale dell'agricoltura. L'agricoltura è un grande patrimonio di questa regione, sono decine di migliaia di imprese, sono decine di migliaia di lavoratrici e di lavoratori, è un grande patrimonio naturalmente economico, se pensiamo ai posti di lavoro, se pensiamo alle nostre produzioni agroalimentari d'eccellenza, alle produzioni DOP, IGP, al cibo che non potremmo avere senza l'agricoltura, è anche un grande patrimonio per la gestione del territorio, cioè per fare in modo che il territorio sia ben mantenuto. In sintesi, quattro obiettivi molto chiari: nuove opportunità occupazionali e reddituali, naturalmente sia per le persone che nelle imprese agricole, nelle fattorie sociali possono essere ospitate, possono seguire dei progetti di inclusione, ma naturalmente questa legge può servire anche a favorire la multifunzionalità e quindi anche il reddito delle imprese agricole stesse, perché è importante che ci sia anche una solidità economica delle nostre imprese, senza le quali non possono andare avanti, non possono svilupparsi, soprattutto investire in nuove attività. Serve naturalmente a sviluppare interventi educativi e sociali straordinari, o meglio fuori dall'ordinario, che possono essere arricchiti dalle attività agricole, dal contatto con l'ambiente, con gli animali, e naturalmente un obiettivo importantissimo: favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate che proprio nel contatto con l'ambiente, nell'agricoltura, possono trovare dei benefici molto positivi. Verrà fatto naturalmente una mappatura, una ricognizione di quelle aziende agricole, fattorie sociali che rispondono ai requisiti, che fanno attività di agricoltura sociale e quindi che saranno dotate di un logo per distinguersi, e verrà fatto un albo regionale, e naturalmente verificheremo anche i requisiti previsti dalla regione, e ci sarà un sistema sanzionatorio per coloro che dovessero esercitare le attività senza essere riconosciuti in questo elenco. La legge serve appunto a riconoscere il valore sociale e le attività sociali che vengono svolte. Dico riconoscerle perché abbiamo già oltre 50 fattorie didattiche, fattorie sociali che già sono impegnate in questo tipo di progettualità di attività. Come lo facciamo? Attraverso degli incentivi ovviamente anche economici sugli investimenti e sul sostegno progettuale, attraverso iniziative di comunicazione per promuovere azioni di informazione e animazione sull'agricoltura sociale, ma finanzieremo anche delle attività formative proprio rivolte alla qualificazione dei servizi offerti nelle fattorie sociali. Abbiamo bisogno di fare conoscere questa nuova opportunità, cioè queste nuove funzioni che nelle imprese agricole si possono svolgere, farlo sapere, formare sia probabilmente gli imprenditori agricoli, gli addetti del settore agricolo, ma anche i servizi sociali, coloro che seguono quelle persone che possono averne bisogno. Finanzieremo quindi progetti di attività di agricoltura sociale e gli investimenti anche che dovessero essere fatti dalle imprese proprio per poter ospitare nuovi servizi, penso appunto al campo dell'educazione, agli agrinido, anche a luoghi capaci di ospitare, di fare soggiornare anziani piuttosto che persone diversamente abili, o semplicemente l'adattamento delle strutture alle esigenze di lavoro di queste persone. Ecco, per finanziare i progetti e anche gli investimenti avremo il piano di sviluppo rurale, che già prevede oltre 1.300.000 euro di risorse, che valuteremo poi se implementare nel corso dei prossimi 18 mesi di PSR di transizione, e poi metteremo anche risorse del bilancio regionale per un pacchetto complessivo di circa 1.500.000 euro come prima attuazione del progetto di legge.